Le parole, diceva Jules Renard, sono degli esplosivi. Chi le usa e chi ne abusa, allora dovrebbe assumersi la responsabilità delle vittime che semplicemente parlando e scrivendo lascia dietro di sé. In quella lunga storia di parole e di vittime, di parole delle vittime e di vittime delle parole, che è stata la storia del movimento operaio, un posto speciale dovrebbe toccare a Wilhelm Weitling, sarto. Sarto come i Dolce, i Gabbana, gli Armani e i Missoni, ma in un'epoca in cui i sarti, a differenza dei Dolce, dei Gabbana, degli Armani e dei Missoni, potevano ancora essere considerati parte integrante del proletariato a tutti gli effetti e in combutta coi calzolai pronti a sovvertire l'ordine costituito del mondo. Weitling nacque a Magdeburgo nel 1808 e visse un po' ovunque, in Francia, in Inghilterra, in Svizzera, Belgio, Prussia, infine negli Stati Uniti d'America, dove morì nel 1871. Inseguito non tanto dall'entusiasmo dei clienti per il taglio dei suoi abiti, quanto piuttosto dei vari organi di polizia intenzionati a cucirgli addosso le migliori divise penitenziarie. Secondo alcuni gli toccherebbe l'appellativo di primo teorico comunista nato in Germania, perché fondò varie società segrete a partire dal 1830 e pubblicò il suo primo libro, che si intitolava L'umanità come è e come dovrebbe essere, nel 1838 lo pubblicò, e il secondo, che si intitolava Garanzie dell'armonia e della libertà, nel 1842. In questi libri predicava l'elogio delle prime comunità cristiane, auspicando l'annientamento della borghesia, l'abolizione del denaro e la comunione di tutti i beni. Il 30 marzo del 1846 a Bruxelles, ad una riunione di socialisti vari, incontra Marx, che non lo digerisce. Secondo quel che narrano le cronache, Weitling parlò per primo e propugnò l'azione diretta e violenta delle masse per realizzare una rivoluzione immediata. Marx lo sta a sentire per un po' con la fronte aggrottata e poi lo interrompe dicendogli di tutti i colori che non si dovevano suscitare false speranze nelle masse, che prima di tutto occorreva formulare una solida teoria scientificamente ineccepibile, che insomma, viva le metafore nautiche, prima della rivoluzione era necessario che la borghesia si impadronisse del timone. Weitling si difese dandogli dell'intellettuale borghese lontano dalle miserie del mondo e fu a questo punto che Marx, rosso in viso, si infuriò, diede un violento pugno sul tavolo e si alzò di scatto pronunciando la celebre frase fino ad ora l'ignoranza non ha mai servito a nessuno. I compagni presenti si alzarono con lui e la riunione in pratica finì lì. Weitling aveva perso. Prima di aver perso con Marx, Weitling aveva preso una legnata da un'altra parte. Nel 1843 era già stato a Zurigo, munito di una bella lettera di raccomandazione per visitare l'anarchico Bakunin. Bakunin, al quale sulle prime piacque, è un uomo senza cultura intellettuale, scrive Bakunin nel 1851, è un uomo senza cultura intellettuale ma di intelligenza innata, una mente agile, molta energia e soprattutto un fanatismo selvaggio, un credo nobile e fiero nella liberazione e nell'avvenire della massa ridotta in schiavitù. Ma ecco, tutte queste belle virtù non gli sarebbero bastate, perché ahi lui Peccato, sembra dire Bakunin. Poco tempo dopo, eccolo tutto corrotto. Corrotto e da chi? Dalla Società dei Letterati Comunisti. Così, sì, così la mette Bakunin, ma Weitling la mette in tutt'altro modo. Racconta Weitling che Bakunin, forse per sgrezzarlo un po', volle dargli ogni giorno una lezione di un'ora per fargli comprendere il pensiero di Hegel, cosa da lui ritenuta fondamentale per l'educazione di un buon rivoluzionario. E la prima lezione passò liscia. La prima. Perché nel mezzo della seconda, a quanto pare, e prima o poi doveva capitare, si imbatterono nello spirito di Hegel. Weitling chiese a Bakunin di spiegargli cosa dovesse intendersi con questa parola, spirito, e Bakunin, tentando di proseguire la lezione, gli disse di sorvolare, di non preoccuparsene, poi ci penseremo. Invece il sarto, testone, se ne preoccupò e come. E per lui lo studio della filosofia hegeliana, come racconta anni dopo, si concluse lì, come i rapporti con Bakunin, anche perché, guarda caso, dopo pochi giorni, piovendo sul bagnato, Weitling viene arrestato dalla polizia locale. Gli indizi sono tutti contro di lui. Bocciato da Bakunin perché è ignorante e comunista, bocciato da Marx perché è ignorante e anarchico, riottoso di fronte al dotto Hegel per via di una sola parola. Tutti i torti sembrano caricarsi sulle spalle del povero Weitling. La sua è la storia di uno che non ha trovato posto in nessuno dei due treni che, secondo quel che dicevano almeno in stazione, partivano per la medesima meta, la rivoluzione. E tuttavia, a mio avviso, tutti i torti non li aveva. Non dico tanto sulla questione dell'ora della rivoluzione, ecco, se era ora, se mancava qualche minuto o qualche anno, ma perché poi se si aspetta una teoria scientifica che, prevedendola, la legittimi, si può aspettare fino all'apocalisse. Ma dico piuttosto che non aveva tutti i torti, anzi secondo me aveva pienamente ragione sulla questione dello spirito hegeliano come esempio di parole e concetti fondamentali di teorie. È vero, se queste parole e concetti non vengono definiti in modo esplicito e chiaro, con loro cade la teoria intera. Chi erige un sistema di pensiero si impegna a comunicarlo senza equivoci e si assume una responsabilità relativa al senso di ciascuna parola e concetto che usa. Al sarto comunista Weitling lo spirito da solo poteva al massimo risultare come la metaforizzazione di un'antica parola che stava per soffio, ecco, soffio e nulla di più. Ovvio e giusto che non gli bastasse, come presumibilmente aveva da lamentare altre carenze definitorie in Hegel, su cui i maestri Marx e Bakunin invece amavano sorvolare. All'ignorante a volte tocca, come al bambino nella fiaba di Andersen, dimostrare che il re, se non è nudo, è perlomeno in mutande. Non tutto fila liscio, ben inteso, nel pensiero di Weitling. In quella comunione di tutti i beni che gli propugnava, infatti, erano incluse le donne. Tanta finezza di analisi sulla divisione del lavoro, sullo sfruttamento capitalistico e sulle sovrastrutture ideologiche che questo sfruttamento ratificavano, tanta capacità di comprensione nei confronti dei processi di alienazione e di mercificazione dell'umano, non era servita a conferire alla donna né una soggettività né un'identità di classe. Ma su ciò, né Marx né Bakunin avevano avuto un granché da dire contro Weitling. E anzi, le pretese di Weitling troveranno altri teorici proletari disposti a farsele proprie. A triste dimostrazione del fatto che a certi agi il maschio rinuncia malvolentieri, sia nella veste più o meno sartoriale di rivoluzionario precoce, che in quella più o meno sartoriale di rivoluzionario differito.